E bentornati in studio. Oggi qui con noi ai nostri microfoni in collegamento telefonico a breve avremo Franco Boselli. Il dottor Boselli è un ortopedico al Poliambulatorio San Lazzaro e parlerà di una problematica che in questo periodo dell'anno è molto diffusa. Infatti parleremo di problemi legati allo sci. Buongiorno Franco. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Franco, immagino che sia una problematica molto frequente. Avete già iniziato ad avere nei ambulatori dei pazienti con problemi legati allo sci? Beh, ti dirò che adesso cominciano a venire quelli che vogliono andare a sciare in inverno e quindi chiedono di ottimizzare la loro preparazione, quindi magari anche di fare un po' di fisioterapia preparatoria, perché la stagione ormai si aprirà, sempre che venga la neve. Quindi la fisioterapia preparatoria è un qualcosa che può aiutare a ridurre i danni e i possibili traumi da sci? Sì, nello sci è molto importante arrivare preparati, Non bisogna buttarsi nella settimana sciistica o i giorni che si va a sciare dalla mattina alla sera senza un minimo di preparazione. Una preparazione che uno può fare un po' domiciliarmente, magari si è attrezzato con una piccola palestrina oppure è seguito da un fisioterapista che insegna a tonificare meglio l'apparato muscolare delle gambe, che è quello più sollecitato. E se uno per vari motivi o anche per sfortuna dovesse avere dei danni, quali sono i danni più frequenti che constatate voi ortopedici? Il problema è proprio questo, il fatto di fare una preparazione pre-sciistica è molto importante per evitare questi danni, che fortunatamente nella maggior parte dei casi sono danni lievi, cioè i pazienti vengono perché hanno avuto una piccola distorsione al ginocchio, hanno avuto un trauma contusivo, quindi hanno l'ematoma, cose di questo genere, perché non dimentichiamo che lo sci è comunque uno sport che sottopone chi lo pratica dei rischi. Non sempre, per fortuna, parliamo di fratture. Una volta si rompevano soprattutto le tibie perché gli scarponi erano bassi, adesso con gli scarponi nuovi sci gli incidenti più frequenti sono a livello del ginocchio. Un grande classico dello sci è i problemi al crociato. Sì. È una cosa molto frequente, come si possono trattare? È una cosa che si vede perché i crociati si rompono per meccanismi di rotazione o di iperestensione che nello sci, in caso di cadute importanti, si possono verificare. Per fortuna a volte abbiamo soltanto delle lesioni parcellari del crociato, dei legamenti, per cui guariscono senza interventi chirurgici con della fisioterapia che va dalla tecara alla laser fino ad arrivare a terapie un po' più invasivi come possono essere le infiltrazioni. Franco, oltre a una preparazione ottimale, che da quello che mi sembra di capire sia il consiglio più importante, sì, quali sono le altre precauzioni per tornare a casa dallo sci senza portarsi a casa vari problemi? Sono quelle di cercare di sciare usando la testa, nel senso di non buttarsi in cose che è troppo esagerate, anche perché si va per divertirsi e non per fare delle gare, quindi arrivare senz'altro preparati, come dicevo, e soprattutto cercare di sciare in condizioni ottimali, sia di abbigliamento che anche di strumentazioni, e affrontare lo sci soltanto se le giornate lo permettono e sono buone, perché è inutile avventurarsi quando c'è nebbia o nevica forte.